Allora, vabbè, intanto grazie di questa riunione tra amici, compagni di lotta e di cibo. Vabbè, siamo a Abete Grasso, quindi io non sto a fare la storia di quello che abbiamo fatto qua ad Abete Grasso. Poi magari durante la nostra chiacchierata ne parliamo anche, perché sarà inevitabile anche fare alcuni paralleli. Però vorrei partire un po' da alcuni dati, no? Magari focalizziamoci un attimo il libro ha come titolo 8 metri quadri al secondo, sono tanti, sono pochi, no? Uno dice, vabbè, sembrano tanti 8 metri quadri al secondo. In un anno, se facciamo 8 metri quadri al secondo, 8 metri quadri per il numero di secondi che ci sono in un anno, sono dati dell'ISPRA questi, quindi dell'Istituto Superiore per la Protezione Ambientale, in un anno sono 252 km². 252 km quadrati sono tanti, sono pochi, no? Uno non riesce neanche, sono 16 km, un quadratone di 16 km per 16 km in un solo anno. Quindi da Abete Grasso arriviamo a Poi per Besate. l'Italia. Besate cosa sono? Abete Grasso, Besate 12 sono 12 km, quindi oltre Besate poi andiamo a destra, entriamo nel Parco del Ticino, cioè sono 16 km, chiudiamo tutto il quadrato. Ritorniamo poi ad Abete Grasso facendo tutto questo. Questa qui è la quantità che in Italia in un solo anno di terra viene coperta dal cemento, di infrastrutture, centri commerciali, case, condomini, quindi cave. Questa è un po' l'isola di Salina, che è quella, non so se avete visto il postino dove, no, hanno girato il colloquio, il dialogo tra Troisi, Neruda. Salina in 36 giorni viene coperta dal cemento al ritmo con cui, no? Quindi è proprio un gioco ad immaginare che è abbastanza, ed è un sono numeri che non ci sono in altri paesi d'Europa. L'Italia negli ultimi 30 anni ha avuto un'impennata rispetto agli altri paesi d'Europa, perché negli altri paesi d'Europa c'è un contenimento, ci sono delle politiche che mirano a contenere, ma che sono anche delle politiche di ordine economico, perché comunque dobbiamo fare i conti con la questione legata al valore della terra, dell'agricoltura, alla sovranità alimentare. C'è chi difende la terra perché la vuole tutelare per la biodiversità, per la questione dei diritti, per tutelare le aziende agricole, ma c'è anche chi difende la terra perché ha un ragionamento economico o si accaparra la terra, no? Il fenomeno del land grabbing, l'accaparramento delle terre in giro per il pianeta, è un fenomeno abbastanza ormai conosciuto, anche se non è che viene molto diffuso. In Italia noi abbiamo, tra l'altro, viene ricordato nel libricino, alcune nostre banche sono tra le più voraci in giro per tutto il pianeta, Africa, Sud America. Perché comunque le multinazionali, anche gli stati sovrani, sanno che nel giro di qualche anno, anzi già c'è, ci sarà bisogno di più terra per sfamare un numero di abitanti che sarà sempre più importante, perché le stime dell'ONU sono che entro il 2050 saremo 10 miliardi, almeno 10 miliardi, e quindi ci vorranno più lotti di terreno per sfamare la popolazione mondiale. In più, picco del petrolio, ci sarà meno possibilità di fare iniezioni di fertilizzanti nella terra, e quindi per avere la stessa quantità di cibo avremo bisogno di più terra, perché avremo una resa inferiore quando non ci sarà più il petrolio. Quindi, ragionando nel lunghissimo periodo, chi ha fa un ragionamento di ordine cioè macroeconomico, la terra se la vuol tenere, se la vuole accaparrare, perché è l'unica cosa che non si può produrre in uno stabilimento. La terra è quella, è finita, una volta che l'hai consumata non ce n'è più, e quindi meno ce n'è, più diventa preziosa, e quindi è un aspetto fondamentale. In Italia noi invece la stiamo consumando in maniera molto sregolata, senza alcuna responsabilità, violando anche comunque dei principi che stanno nella nostra Costituzione. Ecco, una cosa importante che secondo me è bene ricordare, soprattutto per noi italiani, è il nostro articolo 9 della Costituzione. Noi abbiamo un articolo della Costituzione che dice: la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Nella concezione di paesaggio, che che talvolta qualcuno ipotizza come qualcosa semplicemente legato all'estetica, no? Che bel paesaggio. No, il paesaggio in realtà è tutto. Il paesaggio è... questo è un paesaggio. Il folletto con l'annunciata, il pageannunz e la strada che attraversa è un paesaggio. Bello, brutto, questo è, però ha una sua storia. E la nostra Costituzione, con l'articolo 9, che tra l'altro era, siamo stati il primo paese al mondo a mettere la tutela del paesaggio in Costituzione, e non a caso, perché è un articolo che ci lega al passato, o che comunque lega l'impegno a preservare per le prossime generazioni il paesaggio e il patrimonio storico, legandosi a quello che noi abbiamo ereditato. C'è una storicità, in nessun articolo della Costituzione c'è un'attenzione così particolare ai verbi, cioè tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione, quindi tutela qualcosa che hai ricevuto in eredità per trasmetterlo. Quindi noi immaginiamo quello che c'è a Roma attorno all'Appia Antica, all'agro-romano, quando tu tuteli quella porzione di territorio, tuteli la storia, tuteli quello che è stato vissuto in quel territorio, che cosa ha significato, come si è stratificato, come devi trasmetterlo, no? È un articolo che non è statico ma lega. E noi, l'Italia, è stato il primo paese a prevedere in Costituzione un articolo di questo tipo. La tutela del paesaggio non c'era da nessun'altra parte. Poi dopo sono arrivate la Convenzione per il paesaggio dell'Unione Europea, però noi, essendo il paese, così si dice, più bello del mondo, con la biodiversità più importante, perché in tutta Europa il nostro paese... per come siamo conformati abbiamo una percentuale altissima di biodiversità rispetto, se andate in Danimarca o in Olanda non c'è la biodiversità che c'è in Italia, abbiamo un patrimonio importantissimo, e quindi c'è un motivo per il quale noi abbiamo questa... Goethe è venuto in Italia a fare il viaggio in Europa e raccontava quello che osservava arrivando dal Brennero. Non è andato a farlo in Baviera, no? Per quanto possa essere bello, è venuto in Italia. Quindi noi abbiamo degli strumenti già giuridici, e poi dopo magari ci torniamo, perché io ho voluto approfondire in questi ultimi mesi, sto cercando anche di interagire molto con alcune nuove teorie, che poi in realtà sono anche vecchie, che vengono riprese, legate alla questione della terra, del territorio, perché... c'è un capitolo in cui io tratto, riprendendo la teoria del professor Paolo Maddalena, che è vicepresidente emerito della Corte Costituzionale, e che ruota attorno ad una domanda: di chi è la terra? La terra d'Italia di chi è? No? A chi appartiene la terra? E il professor Paolo Maddalena, che non è un rivoluzionario, ma basandosi sulla Costituzione italiana e sul diritto romano, che dovrebbe stare all'ordinamento giuridico del nostro paese, diritto romano, come il teorema di Euclide sta alla matematica, il nostro ordinamento giuridico deriva sostanzialmente, si fonda sul diritto romano. Il professor Paolo Maddalena ci spiega in maniera molto... vi consiglio un libro un po' più, molto più corposo e interessante del mio, che si intitola Il territorio bene comune degli italiani. Il professor Paolo Maddalena ci dimostra in maniera lineare, con un ragionamento che non fa una piega, come in realtà il territorio appartiene al popolo. La proprietà del territorio italiano e del popolo, cioè la proprietà collettiva viene prima della proprietà privata. La proprietà collettiva è riconosciuta e tutelata dalla Costituzione, mentre la proprietà privata è riconosciuta dalla legge. E quindi, con tutta una serie di ragionamenti che io non sono in grado di ripetervi, perché il professor Paolo Maddalena, vicepresidente emerito della Corte Costituzionale, un giurista ovviamente molto più bravo di me, e poi l'ha scritto lui il libro, però dal punto di vista logico il punto di partenza è sostanzialmente questo. Un paese come si può definire? Sulla base di tre elementi: il territorio, il popolo e l'ordinamento giuridico. Noi abbiamo una Costituzione che ci dice il territorio è quello che conosciamo, il popolo sono gli italiani, e poi abbiamo l'ordinamento giuridico che oggi ci dice con due o tre articoli una cosa che molti, no, si dimenticano, che la proprietà privata è tutelata soltanto quando garantisce la funzione sociale, no? Quando c'è un'utilità sociale. E quindi nel momento in cui tu hai in Italia 2 milioni di case vuote, grattacieli, capannoni non utilizzati, che sono il frutto della speculazione, non essendoci nessuna utilità sociale, non svolge nessuna funzione sociale, i capannoni vuoti o i grattacieli che ci sono, anche se sono di proprietà di qualcuno, se non hanno nessuna funzione sociale, cioè non danno da lavoro a nessuno, non sono una casa per nessuno, non producono reddito, non c'è più la funzione sociale della proprietà privata. E quindi in base alla nostra Costituzione, a un po' di dottrina un po' illuminata, noi avremo diritto a riprenderci. Sì, sì, sì, ma infatti questo è il punto, no? Questo è il passaggio che si fa finta di non voler. L'articolo 41 della Costituzione dice che l'iniziativa imprenditoriale è libera, l'impresa è libera, nel rispetto dell'utilità sociale. Tu devi rispettare. Tu puoi fare l'imprenditore, puoi fare delle case, le puoi vendere, ci puoi anche guadagnare, ovviamente ci dovrebbero essere dei limiti alla speculazione, però deve avere un'utilità sociale, dare delle case a qualcuno. Nel momento in cui viene meno questo, il popolo, che appunto deve rivendicare la proprietà collettiva su ciò che dà il significato al fatto di essere uno Stato, una nazione, poi dopo dipende da quali sono gli accenti patriottici o invece più pratici di questo ragionamento, il collettivo, la comunità, ha diritto a prendersi ciò che... Cioè, in realtà poi se facciamo un ragionamento, l'Italia di chi è? Degli italiani. Un paese è di chi lo ha, cioè degli italiani o di chi sta qui, perché poi dopo altrimenti qualcuno pensa, no, che sono italiani. L'Italia è di chi vive in Italia. E poi dopo c'è stata una codificazione di legislazione, perché durante... la Repubblica Romana aveva, si è fatto un solco, si è fatto un confine, si fondano le città e poi dopo però tutto il territorio era del Senato, era dei cittadini, era della Repubblica. È stato con il riconoscimento della legge che è stato dato a chi faceva la guerra, e si è iniziato a riconoscere la proprietà privata, però all'origine la proprietà è collettiva. E noi abbiamo un po' di residui di questo, gli usi civici, i beni comuni, l'utilizzo condiviso, il demanio. Il demanio adesso va di moda, la privatizzazione in realtà è uno dei soliti passaggi che ci sta portando negli ultimi 30 anni a perdere ogni volta, ogni giorno, pezzi di proprietà collettiva. Nello Sblocca Italia c'è un rilancio della sdemanializzazione di ciò che appartiene a tutti noi per darlo a pochi. C'è la crisi finanziaria, non ci sono tutti i soldi che ci servono per pareggiare il bilancio, per pagare il debito, e quindi l'idea qual è? Privatizziamo. Abetegrasso, qual è l'idea che hanno in mente per pareggiare il bilancio del comune di Abetegrasso? Privatizzare, vendere la scuola di Castelletto, vendere i pezzi di terra che sono rimasti, i box, quindi qualcosa che è di tutti, perché la scuola di Castelletto è di tutti noi, oppure c'è qualcuno che dice che vogliono vendere il pezzo, non il pezzo, tutto l'immobile dove c'è oggi l'anagrafe, Piazza Vittorio Veneto, perché così con quello che ricavano sistemano un altro qualcos'altro e lì ci fanno le case, no? E si dice che sia una cosa obbligatoria, e spesso questo porta alla cementificazione. Ci sono comuni, tantissimi in Italia, io li ho visti con i miei occhi, che hanno territorio di proprietà comunale, siccome devono pareggiare il bilancio, è l'unica cosa che hanno sotto mano è qualcuno che venga a fare un centro commerciale, 20 palazzine, un condominio, tirano fuori i soldi, il comune incassa, gli dà valore immobiliare, alza gli indici, e in questo modo però un pezzo di terra che era di tutti, che magari era stato acquisito 500 anni fa, 1000 anni fa, perché poi nei nostri comuni, no? Mi ricollego a quello che era, no, il patrimonio storico artistico, sono gli archivi che sono stati ereditati, sono le cascine che sono state ereditate. Noi abbiamo un patrimonio pubblico in Italia di enorme valore che invece si vuole proprio, no, perché non riusciamo a mantenere. Non... Io ho fatto una prova, no, quando avevo messo su Facebook che ne pensate di questa idea del casello, no, che perché le Ferrovie dello Stato vorrebbero, no, mettere... C'è stato un boom di attenzione rispetto a questa notizia, perché? Perché comunque ci sarebbero le persone pronte ad occupare spazi messi, no, a disposizione, infatti, no, e dare valore fuori dalla logica del mercato. Infatti, detto questo discorso qua, ci sta pienamente la storia, quella che è la storia dei centri sociali e degli spazi sociali, cioè quello è patrimonio, certo, cioè rientrerebbe in questa sfera qua, e che è una declinazione secondo me molto innovativa per rivendicare il diritto di esistere a spazi come il Folletto e tutti, cioè rientra tirandoli fuori dal mercato, sì, sostanzialmente, sì, no? Perché se rimangono dentro la logica del mercato, le ferrovie, potremmo, facciamo il bar, facciamo il Italy, facciamo, secondo me qualcuno ci sta pensando pure di fare l'Italy dentro nei caselli ad abete grasso. No, però adesso è uscito quel bando, adesso non so se c'è un bando vero e proprio, ma è una notizia che ho visto condivisioni su Facebook, gente che dammi il numero di telefono, mi sono interessato, lo voglio anch'io, no? Perché le persone non pensano, no, che sia vera questa cosa, no? Anzi, speriamo che nessuno chiama perché la cosa non è... Sì, no, è chiaro. Invece, che cosa ci dicono nei consigli comunali, nel Parlamento? Che il patrimonio demaniale, si chiami terra, si chiami casello ferroviario, casa cantoniera, piuttosto che pezzo di museo, deve essere venduto per fare cassa, per dare una risposta ai mercati, per pareggiare il bilancio, perché abbiamo portato in Costituzione il pareggio di bilancio, fiscal compact, perché poi alla fine tutto si tiene. Che poi alla fine tutto si tiene, però quello che appartiene a tutti noi, patrimonio collettivo, attraverso la privatizzazione diventa di proprietà di 3-4 persone, di pochi. No, adesso, non so se la storia di Roma, no, del lago dell'ex Nia, è emblematica di questo, ma è proprio, è una cosa, lì dovevano fare il centro commerciale, hanno incominciato a scavare in questa ex azienda. In realtà lì pare che dovesse essere già pubblica rispetto alle decisioni precedentemente assunte dal Consiglio Comunale di Roma. Questi qua hanno scavato, è venuto fuori un lago naturale che sembrerebbe, no, la storia proprio nostra del Pagianus, perché si è formato e i cittadini si sono mobilitati per riprendersi quello che era già di loro proprietà, e alla fine il comune, sulla base di pressione dei cittadini, ha fatto quello che doveva fare, cioè si è ripreso il pezzo di terra, il pezzo di il lago, creando adesso un progetto per dare ai cittadini di quel quartiere, che non è, ce ne sono i Parioli, tra via Prenestina, cioè era una zona sobborgata, Tor Pignattara, quindi una zona, però i cittadini si sono voluti prendere questo pezzo di territorio che non è bello, cioè, il lago è molto bello, è una storia, però è da sistemare, da mettere a disposizione dei cittadini attraverso un lavoro, e se li stanno facendo questi lavori. Poi ovviamente sono processi che hanno bisogno di essere sedimentati e occorre una condivisione di questo, e in questi processi di condivisione e sedimentazione poi chi ha in mente di fare delle belle operazioni di speculazione ha dei mezzi per potersi infilare, quindi subito partono poi le critiche. Una delle cose che più ho voluto centrare è un po' l'atteggiamento che ha il Partito del Cemento nei confronti dei comitati, di chi si oppone, di chi fa un lavoro sui territori, un atteggiamento proprio di sbeffeggiamento, di liquidatorio, denigrazione, marginazione. Se sei del comitato che lotta contro la tangenziale, contro il TAV, contro l'inceneritore, si rompi palle, non hai diritto di essere presente sui giornali. Se per assurdo riesci a fare una lista, poi partono subito le randellate, E così avviene in tutta Italia, perché questo è proprio il processo che... Però talvolta ci si sente soli, isolati, ciascuno nel proprio comune, ma io vi assicuro, non perché siamo ad Abete Grasso e quindi ve la devo dire, ma perché è proprio così, che in tutto il paese, in tutte le situazioni che io ho incontrato, con le quali mi sono confrontato in questi ultimi 2-3 anni, ci sono realtà che lottano in maniera condivisa con tutti gli altri. Forse 20 anni fa non c'era questa consapevolezza di essere tutti uniti in giro per il paese, no? Non c'era, forse 13 anni fa, quando abbiamo iniziato la battaglia contro la tangenziale, era una battaglia molto ok, tangenziale, Abete Grasso, il Parco del Ticino, non c'era la consapevolezza, non c'era il raccordo con la Val di Susa, con... Oggi invece questa rete c'è, esiste, ed è una rete che basa le proprie convinzioni sulle stesse considerazioni, sullo stesso anche sentimento, no? di sentirsi una minoranza incazzata, incazzosa, che cerca di dimostrare con i fatti, con i dati, con che i dirigenti che dirigono questo paese sono senza fantasia, che non hanno più, non hanno idee e che hanno soltanto in testa di andare avanti a tutta velocità, no? Come un cavallo verso il burrone, solo che il cavallo poi alla fine c'ha l'istinto di fermarsi e non va giù, invece questi vanno avanti, probabilmente non ne frega neanche niente di fermarsi prima del burrone, perché comunque c'è un sentimento di avidità, ma che lo vediamo qua, no? Basta vedere che cosa succede intorno a noi, qua a pochi chilometri. Expo 2015, io l'altra sera ho fatto una battuta, ma che poi non era una battuta, no? Speriamo che qualcuno rimanga a piede libero per fare l'inaugurazione, perché attorno a Expo 2015 proprio ci sono interessi, affari, tangenti, c'è la mafia, c'è tanta ciccia, ci sono tante opere, c'è la possibilità di dare da lavorare a destra, a sinistra, no? È un sistema legato al grande evento, alla grande infrastruttura, e se ti metti di traverso sei il solito, no? C'è un sistema di informazione che praticamente è a senso unico, e quindi io sono rimasto sconvolto, adesso non so neanche che cosa devo fare, devo parlare, ho un confronto con Monica, che cosa facciamo con il diario di scuola di Eugenio qua da Abete Grasso. Non so se qualcuno di voi ha visto il diario che hanno dato i bambini a scuola, è il diario di Expo. No. Sì, è il diario. Di Expo, cioè dice oggi, cioè al 13, al 15 di marzo, sì. Oggi è iniziato Expo. Al 20 di febbraio mancano qui 20 giorni a Expo e questi qui sono i prodotti che ci saranno, tutto così, no? Quindi è proprio un sistema, no? Che proprio appunto, no, ti pervade ovunque, no? Poi noi avendo gli strumenti dell'informazione alternativa, comunque poi li vediamo direttamente, c'è anche un'attenzione molto più alta, ma la stragrande maggioranza dei cittadini attorno a noi si indigna se c'è quello che arrestano, così, però poi dopo si dice, però Expo viene un sacco di 5 milioni di biglietti, no? Poi dopo fa niente se li ha venduti ai tour operator, no? Però si è costruita la favola, e quindi no, qua attorno a noi è difficile già qui, no, andare, però se vai a Catania, a Roma, a Torino, trovi molte persone, minoranze, ma molte persone che hanno la stessa, partono dallo stesso ragionamento, fanno lo stesso percorso, e quindi idealmente noi potremmo costruirlo in giro per tutto il paese, una rete che alla fine prova a dare non una spallata fisica, poi magari qualche volta può anche capitare, ma provare a far crescere una narrazione. Adesso mi sta un po' sul culo questa parola narrazione, perché la usava l'altro lì, però a raccontare una storia diversa ai cittadini dei quartieri, che altrimenti si bevono soltanto la televisione, no? Perché se poi dopo tu hai in giro per tutto il paese una rete che incomincia ad essere più presente nei territori e a fare informazione vera e diversa attraverso strumenti che possono essere questi, ma forse ancora più semplici, perché questa è proprio una cosa, ho cercato di essere proprio il più semplice possibile per poter perché altrimenti i convegni con le due palle siamo sempre gli stessi, no? Invece bisognerebbe forse usare, su questo credo che dobbiamo fare un pezzo ancora nuovo di innovazione, usare degli strumenti di comunicazione più immediati, più diretti, per dare dei pugni nella pancia degli italiani, cioè ad Abetegrasso, per fargli capire che l'autostrada non ci vuole, che Paggianunza è meglio il Paggianunza e non il centro commerciale. Non so che cosa, bisogna inventarsi qualche cosa per colpirli nell'immaginario, nel futuro, non lo so, io, e chiudo, così poi dopo facciamo un po' di dialogo. Penso che gli strumenti della politica servano poco oggi, ci vogliono degli strumenti proprio culturali, forse anche psicologici, ci vuole un pensiero un po' più fine, no? Dell'ideologo, del filosofo, del giurista, ci vuole proprio lo psicologo, il pedagogo, fare qualcosa come ha fatto il sindaco di Bogotà, cioè inventarsi delle cose come Mocus, no? Non so se conoscete il sindaco di Bogotà, Antanas Mocus, la città più violenta del Sud America, Mocus, che è diventato sindaco dopo aver mostrato il culo agli studenti dell'università, ha fatto tutta una serie di show di cinema, proprio matto proprio nel vero senso della parola, però era molto intelligente, ha iniziato a fare educazione ai cittadini. Tu non rispetti le regole del codice della strada, che tanto te ne freghi, e io ti faccio la regolazione del traffico con i clown. Perché? Ma non per essere simpatico, per far parlare di sé, perché i cittadini di Bogotà colombiani non rispettano le regole, ma devono essere colpiti nell'orgoglio. Cioè, se mi prende in giro il clown, io allora, se mi fai la multa non mi interessa, no? Ma se mi prende in giro il clown e mi sbeffeggia, allora dico. Cioè, quindi usare la leva dell'orgoglio, della vergogna, per cercare di far, quindi magari gli italiani si dovrebbero incominciare a vergognare di quello che succede anche da Abetegrasso. Non si vergognano molto, quindi dobbiamo fare un po' di lavoro, magari un po' di pagliacci ci sono, magari dobbiamo metterli un po' a lavorare anche ad Abetegrasso, che non mancano, li usano quelli di destra ultimamente, li usano molto meglio di noi, quindi basta, a voi la parola.